snowflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watch word. Just peel out the watch word. Ciao a tutte, ciao a tutti. Oggi vorremmo aprire questa trasmissione con due dediche a due ragazze che portano lo stesso nome, che si chiamano Chiara. Una è una ragazza che è stata ridotta in coma dal fidanzato, è stata ridotta a un essere incapace di... il padre l'ha l'ha definita un vegetale. È a 19 anni ed è ricoverata in condizioni disperate, e a lei va, qui a Roma è successo, e a lei va tutto il nostro affetto. E l'altro saluto è a Chiara compagna Notab, che è qui a Rebibbia Femminile ed è in isolamento. E dopo un paio di giorni passati in compagnia delle altre detenute, di altre tre detenute della sezione di alta sorveglianza, è stata portata appunto proprio in isolamento, e non si sa se è per disposizione dell'amministrazione penitenziaria o della procura torinese. Comunque sola, con il blindo chiuso tutto il giorno, e questa mattina le è stata proposta una nuova modalità per usufruire dell'ora d'aria, da sola ovviamente, e in una specie di cubicolo recintato, e solo per un'ora al mattino e una al pomeriggio. Lei ha declinato l'offerta. E poi c'è una piccolissima luce, e la procura ha sbloccato i colloqui di tutti e quattro gli arrestati del 9 dicembre, quindi anche lei, però solo con i familiari più stretti. E quindi anche a lei va il nostro affettuoso e grande abbraccio, perché Chiara, che è in coma, è una delle tantissime, troppe donne che sono vittime della violenza maschile. E Chiara, che è in isolamento a Rebibbia, è una compagna che si batte perché questo non succeda più, una compagna Notav, perché si batte per l'autodeterminazione della sua gente, per l'autodeterminazione di tutti quelli che vogliono un mondo diverso, e quindi si batte anche di conseguenza contro la violenza contro di noi. Su Chiara che sta in carcere volevamo anche ricordare che visto che sta dimostrando un grande coraggio, e certamente non soltanto perché ha rifiutato questa offerta che è così un contentino e non ha ceduto a questo ricatto, diciamo, morale. E volevamo ricordare che potete vedere sul nostro blog, potete leggere la lettera che ha mandato dal carcere delle Vallette, e da cui appunto riesce, nonostante la sua giovane età e le sue condizioni di carcerazione, a dare più coraggio a noi fuori di quanto forse noi riusciamo a dargli a lei. Allora, la prima parte della nostra trasmissione è dedicata alla manifestazione in Francia che si è tenuta in difesa della famiglia e al collegamento che ci può essere con la nuova proposta di legge in Spagna, cioè per la ridefinizione della legge sull'aborto in maniera estremamente reazionaria e restrittiva. Allora, prendiamo da un sito mainstream che dice: si è tenuta domenica una seconda grande manifestazione in Francia per la difesa della famiglia naturale. Allora, già il termine naturale ce la dice lunga, no? Comunque la manifestazione è stata indetta da realtà reazionarie perbeniste di destra, cattolico integraliste, incentrata su tre punti fondamentalmente: sul no alle nozze gay, come le chiamano, no alla procreazione assistita, no alle madri in affitto, e comunque adesso, come leggeremo da altri link, il governo francese ha fatto marcia indietro poi su questa, sulla legge. Sì, vi leggiamo un articolo dalla Repubblica che dice: Parigi, un passo indietro per calmare gli animi e tagliare l'erba sotto i piedi al movimento della destra reazionaria, capace di portare in piazza decine di migliaia di persone. Il governo Ayrault ha deciso di non presentare un suo disegno di legge sulla famiglia. una scelta che ha subito suscitato l'entusiasmo di una delle leader del movimento, Ludovine de la Rochère. È una vittoria. Quel che si profilava nel DDL non era favorevole all'interesse superiore del bambino e della famiglia. Il provvedimento avrebbe dovuto essere varato dal Consiglio dei Ministri in primavera, ma il suo esame è stato rinviato al 2015, ufficialmente perché i lavori preparatori devono continuare e perché il calendario parlamentare è sovraccarico. In realtà è verosimile che il primo ministro abbia deciso di non ripetere l'esperienza del dibattito sul matrimonio gay e di non riaccendere le tensioni, tanto più in vista delle scadenze elettorali comunali a marzo, europee a maggio, senatoriali in settembre e regionali nel marzo 2015. Fin dal varo della legge sulle nozze gay, la destra ha puntato il dito contro due possibili corollari di quel provvedimento: la fecondazione assistita per le coppie lesbiche e l'autorizzazione della pratica dell'utero in affitto. Sul secondo punto, la sinistra è piuttosto contraria, sul primo a divisa. Il governo non avrebbe comunque inserito la fecondazione assistita nella legge, ma i socialisti avrebbero potuto introdurla durante il dibattito parlamentare. E fin da stamani il governo ha cominciato a mettere i puntini sulle i. Il ministro dell'interno, Manuel Valls, ha annunciato che l'esecutivo si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di imporre fecondazione assistita o utero in affitto nella legislazione francese. Una presa di posizione che ha suscitato la replica seccata del capogruppo dei deputati socialisti. Ma dopo qualche ora Ayrault ha dato ragione al suo ministro e nel tardo pomeriggio ha deciso di accantonare la legge. Possibile fonte di guai in un momento tanto delicato per il governo e per il Presidente della Repubblica. Oggettivamente questa scelta è una vittoria per la Manif pour tout, il movimento nato per combattere le nozze gay e che oggi assomiglia sempre più ai Tea Party americani. Al tempo stesso il rinvio toglie munizioni alla destra reazionaria che stava conquistando consensi, riduce i temi che potenzialmente potrebbero federarla. E però allo stesso tempo ci viene in mente una considerazione che di fronte a una manifestazione di questo tipo il governo francese fa marcia indietro. E ci viene in mente anche il discorso recentissimo che abbiamo fatto sulla legge, sulla nuova legge sull'aborto in Spagna. Perché? Perché in Spagna quindi si permettono di presentare un disegno di legge che porta l'aborto ai tempi addirittura prima dell'85, ai tempi di Franco, la legge sull'aborto, e rispetto a quella che aveva introdotto nel 2010 Zapatero, che permetteva autodeterminazione abbastanza possibile della donna, ci fa capire quanto sia forte il paradigma in questo momento politico, in questo sistema socio-economico, il paradigma del controllo del lavoro riproduttivo, perché in effetti è un disegno complessivo, come abbiamo detto l'altra volta, leggendo addirittura due puntate fa che è stata incentrata proprio su questo argomento, addirittura prendendo le parole di un sito cattolico integralista, questo sito ci ha detto ma è uno spostamento assistiamo a uno spostamento culturale importante, che chiaramente loro si augurano che sia duraturo, e lo spostamento culturale risponde chiaramente a uno spostamento politico. Sun and cast my weight. All I need's peace this mind. I can celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. is where all I need's a place to find, and there I'll celebrate. Provando, diciamo, a fare così un po' un'analisi di queste due proposte di legge a raffronto, ci vengono in mente due considerazioni. Per quanto riguarda la legge spagnola, è chiaro che una legge del genere, no, che quindi fa regredire la condizione della donna a una persona che va tenuta sotto tutela e che è completamente espropriata della possibilità di decidere sul suo corpo, addirittura anche quando si è in presenza di una violenza sessuale, quindi proprio completamente insomma una situazione appunto che regredisce, ci fa pensare che la ridefinizione di questi rapporti sociali, che salta a pie pari tutto quello che è stato, che sono state le fratture rivoluzionarie degli anni 70, che hanno portato a un avanzamento dei diritti non soltanto delle donne, insomma, ma anche dei lavoratori, eccetera, si salta a pie pari questo perché le politiche neoliberiste, che devono, diciamo, dal punto di vista sociale dare una mano a quello che sono la ridefinizione dei rapporti di produzione verso cui stiamo andando, e quindi a questo nuovo equilibrio, tendono a questa regressione. Dall'altra parte, però, se guardiamo la legge francese, ci rendiamo conto che il quadro è ambivalente, no? Che alcune cose sono, che ci sono due facce di questa medaglia, perché il fatto che dal Partito Socialista francese venga fuori la proposta di legge, appunto, di riconoscere i diritti ai patrigni, alle matrigne delle famiglie ricomposte, diciamo, cioè scomposte da divorzi precedenti e ricomposte in nuova forma, e che si voglia estendere il diritto alla procreazione assistita alle coppie di donne omosessuali, sono sicuramente delle riforme che vanno nel senso in cui vogliamo noi, ma non dobbiamo perdere, diciamo, il Partito Socialista che le propone, non le propone per le nostre stesse motivazioni, in realtà non va nella nostra stessa direzione. Certo. No? Perché in qualche modo questa scomposizione della famiglia, aiutarla, incentivarla e anche moltiplicarla, anche questa è funzionale a un'esigenza di produzione, come allo stesso modo è funzionale all'esigenza di produzione quella invece di far regredire la situazione della donna a una persona da tenere sotto tutela, no? Certo. È solo che sono come due gruppi di interessi che si contrappongono, perché diciamo, perché la famiglia scomposta e quindi anche la possibilità di creare una famiglia che adesso non ce l'ha è funzionale all'esigenza di produzione, perché fondamentalmente adesso la famiglia non serve più come centro di accumulazione, non serve più che ci sia una famiglia unita che tramandi la ricchezza che da padre in figlio, no? Per cui l'eredità diciamo rimane intatta nel corso del tempo, ma serve invece un centro di maggior consumo. Qua dobbiamo aumentare i consumi per far ripartire, no? l'economia, e quindi ben vengano le famiglie scomposte, ben vengano la moltiplicazione dei nuclei familiari, perché due persone insieme riescono a ridurre i consumi, a risparmiare, divise invece aumentano i consumi. E comunque è esemplare di questo modo di muoversi sistema in questo momento, no, delle scelte neoliberiste, è proprio il PD, no, il PD italiano. Perché? Perché da una parte cavalca, strumentalizzandole, comunque cavalca le leggi a favore delle donne, a favore delle diversità, quindi a favore dei gay, a favore delle differenze sessuali, a tutela di tutta una serie di violenze di genere che vengono agite e compagnia bella. Dall'altra, e si pone quindi come progressista, chiamiamolo fra virgolette. Dall'altra cosa fa? dall'altra al Parlamento Europeo il 10 dicembre di quest'anno gli eurodeputati del PD hanno permesso l'affossamento della proposta dell'SD che prevedeva il diritto all'aborto per le donne come diritto umano e che se i PD si assumono questa forte responsabilità e questa gravissima responsabilità di non aver permesso che venisse approvato l'aborto come diritto umano e quindi neanche la legge spagnola avrebbe potuto mai essere proposta se ci fosse stata una direttiva di questo tipo dell'Unione Europea. Quindi da una parte sono due tipi di strumentalizzazioni funzionali al controllo su vasta scala, quindi da una parte ci si pone, come d'altra parte fanno gli israeliani col pink washing a livello internazionale, no? Ci si pone a tutela delle diversità, dall'altra parte si porta avanti una politica reazionaria e fortemente perbenista. Quindi tutte, diciamo, le riforme che vanno, cioè che sono spinte da motivazioni di appunto controllo del lavoro riproduttivo, anche se apparentemente, cioè anche se no, anche non apparentemente, insomma, nell'immediato vanno a favore, no, di un determinato gruppo che noi ci sentiamo appunto di rivendicare e di appoggiare, comunque vista la loro motivazione iniziale chiaramente hanno questa doppia faccia. Certo. Quindi noi abbiamo, insomma, siamo strette, siamo di nuovo, siamo come al solito senza rappresentanza, senza sponda e siamo strette in questo gioco. Certo. A questo proposito è interessante un articolo su InfoOut, no? InfoOut.org, che si intitola "Cosa può un corpo di donna?". Questo articolo dice delle cose estremamente interessanti, no? Proprio su questa storia della legge spagnola sull'aborto, però si apre sul giudizio sul controllo del lavoro riproduttivo in generale, no? E dice, per esempio, nelle ultime settimane si è tornati a parlare di aborto con una certa insistenza. Tuttavia la questione non rispunta dal nulla e da tempo si è abituati a convivere con una sorta di rumore bianco, un attacco continuo, insistente e violento a quel metadiritto che è la possibilità di scegliere. In Italia, in modo particolare, il lamento macabro dei cosiddetti pro-life è stato accolto e assecondato dalle istituzioni di ogni orientamento e colore, trasformandosi in normative regionali che di fatto cercano di trasformare i consultori in luoghi di persecuzione. Più in generale si può registrare un forte incremento di retoriche reazionarie integraliste su scala europea, che giocano gran parte della loro battaglia politica sul corpo delle donne e sulla definizione della sessualità. Dunque, tenendo conto del grado di generalità della questione, si possono formulare alcune ipotesi di lettura politica del recente attacco spagnolo al diritto di aborto, con l'obiettivo di entrare in risonanza con i tanti controcanti della crisi che sempre più numerosi emergono da ogni dove. Seguite un attimo l'articolo perché è estremamente interessante di una posizione, no? Cioè, noi concordiamo con tutto quello che è stato detto finora. Però poi dice che il Parlamento europeo ha rifiutato di fare proprio l'obbligo di garantire un aborto libero e sicuro alle cittadine dell'Unione, no? D'altro canto, una concezione autonoma e libera della maternità non è traducibile nel linguaggio senza corpo delle dottrine formali, poiché essa non costituisce soltanto un principio, ma anzitutto una pratica. Una pratica che ciclicamente si cerca di limitare, reprimere e offendere. Allora, questo è vero, cioè è vero che il Parlamento europeo ha negato la garanzia dell'aborto libero, però questo articolo dimentica di riconoscere le responsabilità, cioè quando si fa un discorso a tutto campo sulla repressione del lavoro, sul controllo del lavoro riproduttivo, sulla repressione della sessualità, sul controllo del corpo delle donne, di questo tipo noi lo condividiamo totalmente. Non condividiamo poi se queste responsabilità non sono poi chiarite, perché altrimenti cosa succede? Che sembra che la sinistra, un certo tipo di sinistra, chiamiamola così, socialdemocratica e progressista, sia portatrice di questo tipo di discorsi, mentre è proprio la sinistra socialdemocratica che poi è quella che ha affossato il discorso del diritto all'aborto in Parlamento europeo. Quindi sono articoli che gettano il sasso e poi tirano indietro la mano. Quando non si riconoscono le responsabilità, non si può neanche lottare contro qualcosa che è riconosciuto come portatore di un certo tipo di politica. D'altra parte c'era anche questa differenza di posizioni già negli anni 70, no? Tra chi rivendicava, certo, l'aborto libero, nel senso che poteva essere anche praticato nelle forme in cui la donna sceglieva, e chi invece diceva no, deve essere depenalizzato però regolamentato, no? Certo. Quindi cioè, deve essere libero nel senso che deve bastare il consenso della donna, però deve essere praticato in delle strutture pubbliche, eccetera. Cioè, per esempio, poi va avanti l'articolo con un pezzo che noi condividiamo, è un pezzo che inquadra molto bene la situazione delle donne ed è anche molto bello, no? Dice: da questo punto di vista, forse, e osando, si possono tracciare linee di analogia e di affinità fra l'attacco al diritto di aborto e un accanimento generalizzato contro le forme di vita. Che è vero, perché il neoliberismo sta facendo questo, cioè l'attacco al diritto di aborto non è qualcosa che sta lì appeso ed è vive di sé, ma fa parte dell'accanimento generalizzato per il controllo di tutte di tutta la nostra vita, no? Allora, e continua, e in modo speculare la rivendicazione è un'esperienza libera della maternità e può costituire un significante ampio per affermare un'etica, un insieme di pratiche e di legami attraverso cui riprendersi la vita. D'altro canto, un'intera storia di lotte e una vasta tradizione teorica hanno messo in luce il nesso strutturale e sistemico tra le tecnologie della riproduzione e l'architettura dei sistemi economico-politici. Si è mostrato in modo specifico come la costruzione di un regime di naturalità fondato sul potenziale riproduttivo del corpo femminile e sulla norma eterosessuale abbia garantito nel corso di circa 3 secoli la sussunzione reale delle donne nel processo di riproduzione del lavoro vivo. Da questa prospettiva non stupisce che al dispositivo predatorio della crisi si accompagni un tentativo di assoggettamento violento delle donne in particolare e delle soggettività in generale. Quando si parla di aborto, molti nodi vengono al pettine e il potere tradisce il suo arbitrio, la sua parzialità e la violenza di cui è capace. Per cui noi condividiamo in pieno questo pezzo, è bellissimo, però di questo che l'autrice racconta ci deve anche individuare le responsabilità. Göz bebeğimde. da dağlar yollar yıllar var iken beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş. Sargın yaprakmışım dallarına, yangın toprakmışım yağmurlarına. Sargın yaprakmışım dallarına, yangın toprakmışım yağmurlarına. Türkü olmuşsun, umutunmuşsun, sevda yarınları. Siamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione e la seconda parte è incentrata su, sempre su Cuba. L'altra volta avevamo lasciato il discorso avevamo esaurito un paio di argomenti e avevamo lasciato per questa puntata l'argomento che tutto sommato ci stava molto a cuore, ci riguardava da vicino, quello della sessualità, sessismo, rapporti di genere. Quindi siamo qui con Marghe e le chiediamo le sue impressioni. Allora, per introdurre un po' il discorso, a me piacerebbe partire da un racconto molto personale, no? Quindi di cosa mi aspettavo e come le mie aspettative sono state disattese in senso positivo dal mio viaggio a Cuba. Poi magari da quello che racconto, come è già successo tra di noi, insomma, in un'assemblea, sarebbe anche positivo trarne, no, una delle conclusioni insieme. Comunque, per partire appunto dal mio racconto personalissimo, prima della partenza, pensando anche a molti luoghi comuni che girano su Cuba, ero molto spaventata da due aspetti, diciamo. Uno, di incontrare il fenomeno della prostituzione in maniera molto evidente, no? Che fosse un fenomeno appunto di grandi dimensioni, e avevo paura di scontrarmi con questa contraddizione. E l'altro era invece, diciamo, di natura più intima, ma credo che sia un sentimento che poi condividiamo un po' tutte, e cioè che visto appunto l'immaginario che si crea intorno a Cuba, di un'isola estremamente sensuale, di un popolo estremamente bello, avevo paura di sentirmi a disagio, di non saper partecipare, diciamo, a di questa sensualità, ma invece di vivermela come in competizione, no? Quindi che mi creasse delle insicurezze. Infatti io ero preoccupata per te, Marco. Con mia grande invece sorpresa, entrambe le aspettative negative sono state disattese, perché per quanto riguarda, diciamo, il lato della prostituzione, non è assolutamente un fenomeno, diciamo, così evidente, così massificato, e soprattutto non è degradato. D'altro canto fa ridere, no? Il fatto che, cioè, fa ridere, è emblematico il fatto che quando si parla di Cuba, visto che è un'isola socialista e quindi da questa parte del mondo bisogna demonizzarla, no? Cuba uguale turismo sessuale, prostituzione, come se fosse cosa che invece vi assicuro che è un elemento della vita quotidiana che si vive molto di più in Italia, a Roma, in quartieri periferici e anche meno periferici, e soprattutto non solo che si vive, ma si vive anche, cioè, insomma, qui c'è il fenomeno della prostituzione per strada, con vari sistemi di potere che si intrecciano su di esso, insomma, me la vivo peggio qui questa cosa rispetto a quanto invece sia accaduto là. E su questo vi racconto anche una cosa interessante, che quando fondamentalmente si è sviluppato il fenomeno della prostituzione verso l'esterno, cioè di ragazze cubane che vanno in cerca dei turisti, no? Che è stato proprio quando Cuba si è aperta al turismo, e quindi quando era nel periodo speciale, dove c'era una situazione, una condizione materiale, una assenza di risorse totale, no? Quindi era un periodo molto duro. Si è cominciato a sviluppare questo fenomeno, e a un certo punto la Federazione de las Mujeres, delle donne cubane, ha dovuto prendere una posizione ufficiale, e la prima posizione ufficiale che ha preso è stata quella di dire: le donne cubane sono delle donne libere, liberate, e quindi fanno come gli pare, cioè hanno, sì, cioè hanno la possibilità di decidere come usare il loro corpo, perché fondamentalmente là è vissuto, cioè è un lavoro come un altro, e a parte che non è un lavoro, cioè non stiamo parlando poi di una prostituzione continuata e continuativa, no? Perché spesso sono semplicemente degli incontri con dei turisti che magari si protraggono anche nel tempo, che sono delle piccole relazioni, no? Che si instaurano poi, sicuramente perché il turista ha un potere d'acquisto, no? Eccetera eccetera, però è anche appunto per questo un fenomeno particolare. Comunque mi è piaciuta molto questa posizione ufficiale, perché che chiaramente per noi è, certo, aliena, completamente aliena, cioè non per noi, per le posizioni ufficiali che invece abbiamo qui. Invece dall'altro punto di vista, insomma, che è quello che riguarda di più la sessualità, anche in questo sono stata piacevolmente stupita, perché dopo un paio di giorni che ero a La Habana, con mio grande godimento mi sono resa conto di non essere assolutamente intimidita e in soggezione dalla bellezza delle ragazze che passavano, né dalla bellezza dei ragazzi che passavano, perché si hanno una grande attenzione al corpo e sono molto vanitosi, almeno questo è quello che ho potuto vedere io, ma è una opinione anche condivisa di chi c'è stato. Ma la loro vanità, appunto, cioè la loro sensualità non si esprime come da noi in termini competitivi, non c'è un unico modello di bellezza a cui tutte quante devono aderire, per cui si sta sempre attente, oppure c'è il vestito alla moda che se non ce l'hai è così, o cioè ognuno è un po' libero di manifestarsi per quello che è. Poi hanno tutti una grande familiarità con il loro corpo, no? Proprio di ballo, di tutta una serie di cose che sono, certo, molto capillari. E quindi fondamentalmente non mi sono sentita in soggezione. Era come se invece potessi partecipare della bellezza che c'era intorno, perché una bella ragazza che passa ti fa un sorriso invece che guardarti dall'alto in basso, e quindi è stata una sensazione molto piacevole. No, è confortante questa cosa, perché comunque penso che succeda un po' a tutte noi, insomma. Io pensavo che fosse una cosa, una paranoia solo mia, ecco, trovarmi in queste situazioni di sentirsi un po' a disagio, come diceva Margherita. Invece, ecco, sapere che è comune, è confortante, e poi sapere che invece esiste anche un altro modello, certo, sì. Sì, perché fondamentalmente è una, cioè un'assenza, cioè dove non c'è competizione è perché la sensualità e il sesso non vengono usate come armi di scambio, no? Non si instaurano delle relazioni di potere per cui tanto più sei bella, tanto più sei vincente, tanti più partner hai nella tua vita, tanto più sei vincente, oppure tutto riassunto dal nostro modo di dire, che quando una persona, non so, cioè il termine sfigato, no? O sfigata, che poi non ha neanche senso, insomma. Però ecco, cioè, termine corrente prima di significato, ma cioè, che viene usato comunque. Esatto. E la cosa è stata, cioè, controverificata, ho avuto anche una controverifica, perché dopo Cuba sono stata anche in Messico, in una parte del Messico sicuramente poco messicana, perché è lo Yucatan, quindi molto turistica, e sono stata precisamente in un luogo dove c'è il turismo, quello più radical chic, più, come lo possiamo definire, insomma, fanno tutti yoga sulla spiaggia e jogging radical e chic alternativo eccetera, però comunque con le carte di credito e, al e gli alberghi eco chic a 5 stelle e, di eco hanno poco, penso, perché no, di eco qualcosa ce l'hanno, sì, nella versione corrente consumistica. Sì, sì, però sì, per esempio c'hanno i pannelli solari, cose di questo tipo, capito? Sì, è un capitalismo verde dal volto fricchettone, insomma, sì. E la controverifica è stata che nel momento in cui sono arrivata in Messico, anche lì era pieno di belle ragazze e di bei ragazzi, però occidentali, e che quindi portavano, se così si può dire, per farmi capire, la loro bellezza in termini completamente diversi. E i primi 3 giorni io sono stata tra l'intontito e diciamo anche un po' l'incazzato, perché mi sembrava invece di aver perso la sicurezza che avevo conquistato a Cuba, no? Perché di nuovo quegli sguardi mi facevano sentire in difetto, quindi stavo costantemente a vedere se la maglietta stava messa bene oppure se c'avevo... Sì, sì, è la classica sensazione che si ha. Sì, di essere guardato, cioè di essere, cioè, questo... Cioè a Cuba ci si guarda molto, no? Cioè i cubani fischiano dietro alle cubane e sì, insomma, sì, sì. Però non c'è la sensazione di essere osservato con appunto questo sguardo predatorio, per cui sia di donne che di uomini, no? O di comunque uomini, di giudizio, cioè non, perché non è vissuta in questi termini? Chiaramente qua la domanda è perché a Cuba la sessualità non è una relazione di potere, cioè non si fonda su relazioni di potere. Certo. Risposta? Beh, la risposta è, secondo me, insomma, è perché lì, essendoci stata una rivoluzione, essendo poi stato instaurato un sistema socialista, essendo quindi cambiati i rapporti di produzione, comunque hanno fatto un grosso tentativo, cioè è un modello che può avere dei difetti, chiaramente ce l'avrà, chiaramente avrà dei limiti, però hanno fatto un grosso tentativo. E quindi anche se è vero che i cambiamenti, cioè che c'è una relazione bionivoca, se non si cambiano i rapporti di produzione non cambiano i rapporti sociali, ma non è detto che cambiando i rapporti di produzione, certo, cambino i rapporti sociali, lì evidentemente si sono seguite le due strade, perché chiaramente ci saranno, cioè ci sono dei retaggi di cultura maschilista, e questo me l'ha anche ben spiegato una compagna, perché lì praticamente la cultura maschilista e l'immaginario un po' macista si è stratificato con varie accezioni, cioè mentre noi ci ritroviamo con la stessa impostazione, cioè il patriarcato è sempre quello e ha sempre e da tempo già si è alleato, no, con l'interesse produttivo, e quindi ha quella faccia da molto tempo, sì. Lì invece ci sono stati delle stratificazioni di maschilismo differente, nel senso che c'era quello coloniale, quindi patriarcale, che conosciamo anche noi, poi a cui è stato sostituito prima l'immaginario delle, durante le guerre di liberazione nazionale, cioè di decolonizzazione, dall'immaginario del caudillismo, no? Che comunque era sempre una figura maschile, poi anche l'immaginario di rivoluzionario guerrigliero, certo. Comunque ha alcune componenti di questo, però dall'altra parte ci sono state numerosissime donne guerrigliere, numerose brigate, anche soltanto femminili, e le quali poi si sono riunite poi dopo la rivoluzione in questa federazione de las mujeres, che fondamentalmente ha questo, ha il, cioè il ruolo che svolge è quello di incentivare la partecipazione delle donne, no? Perché il loro slogan è lavorare, insomma, combattere e lavorare per la rivoluzione e lavorare per le donne, e lavorare e combattere per le donne, no? E anche questo è un po' un capovolgimento rispetto a quello che abbiamo noi, no? Cioè lì per una donna partecipare alla vita pubblica, partecipare anche alle strutture produttive, non è automaticamente un tradimento di classe, quindi non ti porta anche a tradire poi la lotta di genere. In qualche modo una relazione invece che va nello stesso segno si ha lì. Certo, e comunque io mi pongo sempre con molto rispetto verso i tentativi di cambiamento, i tentativi di cambiare questo modello imperante, onnipresente, i tentativi di essere, di provare a essere altro e di difendere quest'altro, perché chiaramente il modello cubano è talmente limitato, piccolo, circoscritto, che veramente cioè anche tutti gli attacchi a cui viene sottoposto sono li sento come talmente violenti e talmente pretestuosi che possono soltanto venire da non lo so, neanche. Sicuramente non li possiamo fare noi, insomma, cioè, ci mettiamo anche noi a sottolineare le contraddizioni. Anzi, c'è moltissimo rispetto appunto verso questo, e mi meraviglia anche che susciti tutto questo livore da parte dell'Occidente, di che cosa così piccola ma così spaventosa. Sì. Però è importante, sicuramente questo modello, no, non è esportabile, ma questo è anche uno dei certo. paradigmi, cioè, cioè soltanto la democrazia che pensa di esportare se stessa, insomma. Sì. Ma, e di essere sempre nel giusto. Esatto, no? Però è anche bello e importante ogni tanto sperimentare certo. dei sistemi di riferimento diversi, perché forse possiamo prenderne qualcosa e cercare di riportarli anche qui, no? Cioè questo sperimentare la sessualità anche in termini collettivi e nella vita pubblica differente mi ha fatto anche vedere alcune cose di miei atteggiamenti ormai condizionati che io ho quando sono in Europa, che senza uscire dal sistema di riferimento riuscivo a leggere poco, no? Erano come sotto traccia, cioè mi sono resa conto per esempio che appunto nel momento in cui le relazioni sessuali, la sensualità, eccetera, le relazioni d'amore sono più libere cioè. Dalle relazioni di potere, anche il maschile e il femminile in qualche modo cambiano, no? Certo. Vi faccio un esempio, se no non riesco a spiegarmi, che lì fa caldo e comunque vi dicevo prima che sono molto vanitosi, quindi un sacco di vestitini, minigonne, eccetera eccetera, anche io ho un discreto armadio di minigonne che metto spesso e quindi portavo anche lì la minigonna e mi sono resa conto di portarla in un modo completamente diverso rispetto a quando lo faccio qui. Cioè io in Italia, a Roma, mi metto la minigonna e poi subito devo controbilanciare con un attributo invece di segno maschile, l'anfibio. Che è l'anfibio con la punta de ferro, oppure anche semplicemente, e peggio, un atteggiamento di tipo più mascolino. Cioè mi sto mettendo la gonna, però cioè stiamo in realtà, capito? Cioè in realtà sono aggressiva, in realtà me girano, cioè non riesco, cioè non è che mi metto la gonna e sculetto, no? No, oppure certo. mi metto la gonna e nel frattempo ho i capelli sciolti e faccio grandi sorrisi, perché è una cosa che qui No, perché scatena immediatamente immaginari e reazioni di altro tipo e anche in te stessa cozza con tutta una serie di stereotipi che sono vincenti, no? Mi sento come se mi stessi strumentalizzando da sola, come se mi stessi mercificando, no? Invece là questa mercificazione non c'è. E un'altra cosa che ho notato fondamentale da questo punto di vista è la pubblicità. Certo. No? Lì non esiste la pubblicità, non esiste proprio, no? Ci sono i cartelloni di propaganda, i murales, ma non esiste la pubblicità di nessun prodotto, quindi non esiste neanche l'immagine della donna nuda che pubblicizza quel prodotto, no? Certo. A uso e consumo di un pubblico maschile, e quindi non c'è questo continuo raffronto anche con questo canone tipizzato, idealizzato, nuda e anoressica bellezza. Di solito, cioè, magari questo un po' si sta mettendo in crisi questo ideale dell'anoressia, no? Vedo che comunque incominciano ad esserci delle immagini un po' meno, appunto, sì, malate del corpo femminile, però comunque c'è, cioè, la rappresentazione costante, continuata, volgare e mercificata del nostro corpo, che quindi, cioè, ci espropria del nostro immaginario, ed è uno stimolo costante. Quindi, appunto, uscendo fuori da questo sistema, mi sono resa conto, ho potuto rendermi conto anche di atteggiamenti che ormai in qualche modo ho interiorizzato pure io. Certo. C'è più un piacere di porsi, di farsi, di godere della bellezza, di farsi e fare partecipi anche gli altri di se stessi, insomma, penso di aver sento questo dalle tue parole, ecco. Sì, senza paura di essere incasellata in qualche in cosa. Varie, no? Perché qui c'è la paura di essere incasellata nella donna per bene, nella donna per male, quella leggera e quella pesante. Sì. Ci sono sempre comunque delle dicotomie in cui vai a parare, certo. E allora uno si mette la minigonna e compensa, perché così partecipa di entrambe, sì, le categorie, sì. Invece là forse puoi avere una categoria tua, cioè ognuno. Sì, no, secondo me poi è molto importante fare, ecco, un'analisi politica di queste cose, perché se no una non si rende conto, ecco, perché è immersa in questi meccanismi e pensa che siano normali, invece se si dà una lettura comunque collettiva e politica della cosa, si riesce a capire meglio, insomma, la realtà in cui siamo immersi, ecco. Poi forse anche a non colpevolizzarsi, certo. No? Cioè, se io mi sento insicura in determinate situazioni non è perché sono debole, no? Cioè sì, devo lavorare su me stessa, ho anche gli strumenti per rifiutare quella insicurezza, però comunque è anche un problema collettivo di non porci in quelle situazioni. Certo. Comunque vi posso assicurare che Margherita è tornata molto forte. You just don't care. But we both. Un altro aspetto sempre afferente alle relazioni, alla struttura sociale, quindi anche al ruolo della donna e alle relazioni di genere, è una riflessione che mi viene da fare sulla struttura familiare, che ho avuto modo di frequentare anche qualche famiglia, ma sono cose che si possono vedere anche, insomma, dalla vita per strada, perché là, appunto, quasi tutta la vita è vissuta collettivamente, è pubblica per strada, cioè c'è poco la separazione, insomma, del nucleo privato dal resto del mondo, c'è anche poco questo desiderio, quindi ce ne si può rendere conto anche semplicemente guardando quello che succede per strada. È che non ho visto donne, madri particolarmente esauste e sfinite dalla quantità di lavoro che gli viene, che gli casca addosso nel momento in cui fanno un figlio. Ho visto anche giovanissime avere dei figli, insomma, anche se questa cosa non è incentivata, ma anzi, cioè, si cerca di prevenire la maternità adolescenziale, comunque crescono molto in fretta e quindi fanno anche i figli da giovani. Però non ho incontrato, appunto, quello sguardo tipico che si incontra a Roma o che comunque posso riconoscere anche in amici, amiche e parenti che hanno avuto figli, di Sfinimento. Sfinimento totale, no? E anche solitudine che si prova quando si fa un figlio in una città. Sì, io volevo dire solo una cosa, che facendo come diciamo sto a contatto con diverse famiglie, facendo la babysitter, mi capita, ecco, di venire a contatto con le mamme che dicono: mamma mia, non vedo l'ora di andare a cena fuori, perché sono proprio, sto sempre qui dentro e faccio da mangiare, sto sempre con mio figlio, cioè, proprio per dire, insomma, questa condizione di isolamento anche. Sì. E invece là è come se queste esperienze di maternità sono diverse, anche perché, cioè soprattutto perché credo la maternità è un affare condiviso, cioè si riesce a ripartire il carico del lavoro di cura tra più soggetti, innanzitutto perché c'è una rete di solidarietà fortissima, no? E quindi lo stesso discorso che facevamo sul lavoro, per cui non tutto è mercificato e ogni persona è immersa in una rete di solidarietà, questo esiste anche per quanto riguarda il lavoro di cura. E si possono fare esempi banali, per esempio, visto che appunto lì la vita si svolge prevalentemente per strada, no? E non in luoghi appartati, chiusi, eccetera, non c'è pericolo, non c'è criminalità, non c'è pericolosità alta, quella che abbiamo noi nelle nostre città, i bambini anche da piccolissimi possono semplicemente andare per strada insieme a bambini più grandi che gli danno un occhio, oppure insieme alla coppia più anziana, che non è per forza il nonno o la nonna biologica del bambino, ma semplicemente c'è questo, tutti si chiamano sorella, fratello, cioè ci sono delle relazioni anche vissute come familiari allargate, no? Per cui la madre che sta preparando la cena riesce con il bambino, che non c'è il bambino che sbrocca dentro casa perché non sa che cosa fare, si sta annoiando, oppure che sta imbambolato davanti alla televisione, no, il bambino esce per strada mentre la madre fa altre cose, oppure. E questo l'ho trovata, anche questa è una cosa rivoluzionaria, perché si percepisce proprio, cioè ti ritrovi anche a parlare con giovani ragazzi che stanno giocando a calcio per strada e che dopo mezz'ora che ci chiacchieri ti dicono: ah no, perché i miei due bambini, ma come, e dove stanno? No, adesso vabbè, stanno vicino a casa, stanno davanti a casa di un amico, con poi la madre li passa a prendere. Sì, sì, è un tipo di relazione che forse c'era tempo fa da noi, diciamo ai tempi dei nostri nonni, chiaramente. Però una era immersa, sì, in una era differente. Anche perché non c'è una coppia monogamica forte là. Cioè, nel senso, la relazione molto è monogama. Questo bypassare è proprio nella tradizione forse anche sudamericana, bypassare la coppia monogamica. Sì, sì, cioè, perché quando la relazione c'è, è una relazione monogama, però c'è una facilità anche di prendersi e lasciarsi, fare dei figli e non stare. Sì. Cioè, la maggior parte delle persone che ho conosciuto, giovani che avevano figli, non stavano con il rispettivo compagno o compagna con cui avevano fatto il figlio. E solitamente sono buoni rapporti quelli in cui ci si lascia. E quindi in questo magari è differente da quello che noi abbiamo vissuto nel passato. Perché Beh, per esempio, questo mi viene in mente una cosa, diciamo così, a margine, proprio un'idea estemporanea, che forse c'è, essendoci meno l'idea del possesso, perché il problema della coppia è monogamica e della famiglia come l'abbiamo qui da noi, o comunque dei rapporti eterosessuali, ma anche